24 mattino. L'Italia si desta. Di Alessandro Milan. Aggiungo che quello che è successo ieri a Buenos Aires mi fa pensare che uno dei temi in agenda che dobbiamo metterci è che il 2024 l'Italia possa candidarsi seriamente a ospitare le Olimpiadi. Io lo considero una delle cose fattibili, possibili, ci dobbiamo fare metterci la tuta, perché io sono tra quelli che pensa che il nostro è un paese grandioso, straordinario, ci impegniamo tutti, ma se abbiamo delle scadenze ci impegniamo meglio. Ma certo, le Olimpiadi, ecco la soluzione. Quando sono momenti di crisi, quando c'è difficoltà, panem et circenses, le Olimpiadi e la candidatura dell'Italia alle Olimpiadi del 2024. Era il premier Enrico Letta che parlava ieri a Cernobbio. Buongiorno, e riparte una settimana di 24 mattino, cari italiani, è la 19esima settimana decisiva per la riforma elettorale e la 19esima settimana decisiva per l'abolizione delle province. Si apre oggi ufficialmente con il nostro alpino Peter Bescapè in regia, che saluto, e con il nostro Parlamento che può aprire immediatamente, visto che siamo anche in ritardo, oggi un po' affannati. Ma sì, c'è sempre. Io non lo voglio il caffè della Minetti. Tu continui, che forse hai preso anche tu i suoi favori. Crossate col caffè della Minetti, noi non lo vogliamo dalla Minetti, brutto cretino d'un Milan. La Minetti che è data in Spagna, qualcuno non so. In Spagna, spersa in Spagna. Allora voglio andare rapidamente a salutare subito un grande ritorno, Paolo Del Debbio. Buongiorno. Grazie, buongiorno. Conduttore, sì, benissimo, di quinta colonna. Ecco. Ha ripreso alla grande la stagione, già da giorni sta già lì a combattere in prima fila su Rete 4. Stasera di che parlerete? Voglio solo immaginarlo. Ma insomma, l'Italia divisa in due, sia al Senato che poi divisa in due, soprattutto quest'estate, perché c'è chi l'ha fatto le vacanze, ma molti non l'hanno fatto. Molti no, molti vita, caro Mario. Del Debbio, le devo presentare un nostro grandissimo amico e conoscitore, non so se lo conosce, il grandissimo Alberto Forchielli, che è il presidente dell'Osservatorio Asia, nonché osservatore delle cose italiane in maniera un po' così scanzonata. Forchielli, buongiorno. No, come va? Ma non bene, Alino, sono a Monaco, ma... A Monaco? Sì, sono proprio in radio per l'affetto che devo a tutta te, a tutti voi. Che è successo? Ma ieri sera sono arrivato e poi i miei amici tedeschi mi hanno portato in uno di quei ristoranti stile Oktoberfest. Ho mangiato uno stinco di mezzo metro e stanotte ho avuto una notte molto agitata, al punto che ho avuto un'apparizione. Mi è apparso Bungasconi in sogno, che mi chiamava Albertone e mi chiedeva se potevo andare ad Arcore a fargli da badante. Ma no, ma come? Ora, sì, mi ha addirittura offerto il turno notturno. Io sono rimasto imbarazzato e mi rendo conto che questo è il segno di una forte indigestione. Finita la trasmissione, vado subito in ospedale. Del Debbio, Forchielli è così, lui lo chiama Bungasconi. Consigliabile dose da cavallo di bicarbonato. Ecco. Lo chiama così, Bungasconi. Prima di arrivare a Berlusconi, Forchielli, a Berlusconi. Allora, questa delle Olimpiadi, siete pronti? L'Italia è pronta per il 2024. Che ne pensate? Le Olimpiadi del Debbio, arrivano le Olimpiadi! E ci manca anche quelle. Bella, qui, però. Qui ci fanno saltare nell'ostacolo, lo alzano tutti i giorni. Le Olimpiadi la mettono a 4 metri, saltano altri. Sì, infatti. No, non male però. È panem et circenses. Forchielli, qua è un bel cappello, è un bel coniglio dal cilindro quello di Letta, c'è la crisi e io voilà, ti sfoggio la candidatura alle Olimpiadi del 2024. Ma da qui al 24, oggi sono 11 anni, al 3% di deficit, se siamo così virtuosi, avremo un altro 33% di debito, per cui il nostro debito sarà il 165% del PIL. Oh, giusto. Io per essere ottimisti, no? Sì, no, sì, a forza. Siamo virtuosi, quindi il debito aumenta solamente del 3%. Capisco che è nominale, c'è un pizzico di inflazione qua e là, per cui io non so se un paese Cioè, voglio dire, io non so se ci arriviamo al 2024, ecco, tutto lì. No, del debito qui, Forchella è uno che poi mette lì, fa i conti, eccetera, e poi sentenzia queste cose qui. Beh, effettivamente, per pensare, no, del debito, adesso la candidatura alle Olimpiadi, cioè l'ultima cosa che gli italiani stanno... Ma sì, ma no, ma è ovvio, cioè, non occorre mica... Cioè, ha ragione Forchella da questo punto di vista, 11 anni sono... con la crisi, che ne sappiamo, insomma, se non so. Sì, vabbè, vedremo, è vero che le candidature si fanno tanti anni prima, ma noi ci abbiamo problemi di tanti anni prima, nel senso di quando, pregresso, da ora, sì, certo, esatto, sì. Non prima del 24, prima del 2013 sì, abbiamo problemi. Poi è il segno un po', come dire, cioè, da parte di Letta, no? Di voler dare questo sprint che però, a mio modo di vedere, manca in primis a lui, cioè nel senso sembra quasi che non ci creda, no? Del debito, sembra, dai che facciamo le Olimpiadi, io sono convinto che ce la può fare l'Italia, ma non sembra convinto neanche lui, non so, forse è una questione di... Vabbè, ma insomma, ora lui, poi ognuno è fatto come è fatto, insomma, certo non è un esempio di, diciamo, di trascinatore di folle, no? Cioè, è uno che ti può dare ad alcuni in Europa da affidabilità, sì, non sì. So perché, per come, ma comunque gliela dà e va bene così. Però è ecco, così, la certezza. Non è un esempio di diciamo, insomma, ecco, da New Deal, insomma. No. Forchella ha visto ieri, oggi sul giornale, il ministro Carrozza, il ministro dell'istruzione, sai cosa ha criticato? Era ieri a Cernobbio, ha detto... Ma tutte queste grisaglie, tutti questi in giacca e cravatta, tutti perfetti, precisi, è un po' l'immagine di un paese, no? Anche in questo, un modo di rappresentarsi e di presentarsi. Ma non li fanno entrare, la carrozza. Questo è vero, non li fanno entrare. Che la facciano al camping giù all'aria, esatto. L'aria, invece Forchella ha visto Casaleggio, no? Si è presentato con la sua bella pettinatura a Cernobbio. Casaleggio... Casaleggio è un incrocio tra John Lennon, Branduardi e Barba Papà. No, ma come Barba Papà addirittura? Sì, e con tutto il rispetto per Barba Papà, io non ho altre parole. No, ma che ne sa? Ma Monti ha detto è stato interessante, lo abbiamo ascoltato con attenzione. Sì, vabbè, ma Monti, io... si vede che il livello era quello, capito? Cioè, anche il Mago Telma è interessante, sotto certi aspetti. No, adesso c'è quindi il Mago Telma come Casaleggio, ecco, io so già adesso tutti i grillini che mi chiameranno. Io una volta da bambino andavo anch'io a Cernobbio, ma adesso invece preferisco consultare una cartomante, spendo meno. Perché è un mondo dei sogni, dove appunto si raccontano queste stronzate dell'Olimpiade del 2024, mentre Letta è come un moscone che sbatte contro un vetro, capito? Il vetro cosa è sarebbe? Presente qua, quando rimane un moscone chiuso in casa che poi dopo bang, ecco, quello è Letta. E il vetro cosa sarebbe? Il vetro cosa sarebbe? Il mondo. Il mondo. Questo è, insomma, del debito. Vediamo alle cose un po' più prosaiche, perché qua Berlusconi, allora, ecco qua. Intanto rinasce Forza Italia, Dicono. Dicono, del debito qualcosa ne sa, visto che la prima Forza Italia è la prima, ma questa non c'è. Non ci voglio mettere. Faccio un altro mestiere, se no sarei qui stamattina. Dice la prima sì, ma questa non mi ci tirate in mezzo. Ho dato. Ma anche qui, insomma, è un po' come rimettersi con le vecchie fidanzate. Ma com'è possibile, del debito, che rinasca Forza Italia? Cioè... Ma lì, sai, siccome il PDL oggettivamente, insomma, non è andata bene, no? Nel senso che hanno fatto, ha messo insieme robe che insieme non ci stavano, si erano messe in un modo sbagliato e tutti questi discorsi qua, allora uno dice, aspetta un attimo, ho cambiato la macchina, ma forse è meglio che mi ripiglio la macchina di prima, e fa così, dopodiché il problema poi è vedere le idee, è vedere il progetto, chi sarà quel che lo porta avanti, insomma queste sono le robe da vedere, io su questo staremo a vedere. Staremo a vedere. Il nome di per sé non è che dici... Forza Italia in Oxigno vince, capito? Cioè... No, è chiaro. No, Berlusconi non è mai stato innamorato di Popolo della Libertà, questo acronimo PDL, non è mai piaciuto. Sì, no, gli piaceva. Però... l'altro, però ha fatto quello, in fondo pensava che ci volessero due formazioni sole, non c'entra, insomma, questa è una bella storia. Sì. Adesso non so, Forchielli, non è che voglio far rifare l'indigestione, riproporre lo stinco, l'indigestione, però è una roba su Berlusconi, bisogna... Ma oggi... Non c'è la riunione della giunta? Sì, oggi si unisce la giunta, ma attenzione, c'è stato un ricorso alla Corte dei diritti dell'uomo di Strasburgo. Sì, vabbè, ma non è che la giunta... Io no, hai sentito della grande prima che c'è a reti unificate oggi? Cioè, quale sarebbe? No, adesso già tre. Dopo torna a casa Lessi, te lo ricordi, no? Come no, certo. Da stasera a reti unificate debutta... Torna a casa Lesso, interprete decisione Silvio Berlusconi. Vabbè, ho già capito, non lo so, secondo me su Rete4 oggi danno quinta colonna con Del Debbio, però non lo so, forse se il palinsesto viene modificato così. Andiamo a sentire le informazioni sul traffico, poi c'è la nostra segreteria telefonica, siamo con Alberto Forchielli e Paolo Del Debbio, ritroviamo tra pochissimo. 24 mattino. Egregio giornalista Milan, in Liguria non è raro vedere qualche anziano rovistare nel cassonetto dei rifiuti per cercare qualcosa da mangiare. A me si stringe il cuore. Io vi chiedo, dobbiamo rassegnarci ad avere un condannato in Parlamento? Punto interrogativo. Dobbiamo aspettarci che un condannato possa essere nominato ancora Presidente del Consiglio? Punto interrogativo. Cosa dirà il condannato quando dovrà giurare davanti al capo dello Stato? Punto interrogativo. Come si può pensare che altri capi di Stato possano stringere la mano al condannato Silvio? Ma queste cose i compagnoni di Silvio le hanno valutate? La volete capire, politici, che è il nero che fa girare l'economia o no? La volete capire che è il nero che fa girare l'economia? Coglioni di politici. Buongiorno Milan, non sono per nulla arrabbiato, anzi sono speranzoso. Se il PD vota la decadenza del condannato, il PDL fa cadere il governo. Che bello, prendiamo due piccioni con una fava. E in sostanza quelli del PD sono costretti a tenere un pregiudicato perché loro non sono in grado di governare, di dirigere un partito, di esprimere delle persone credibili. Ma non si vergognano, perché questa è la verità. Sono degli incapaci, no, criticano il PD, e il PD discutono. Però, dico, sono vivi, hanno delle persone di un certo valore. Non riescono dopo Berlusconi ad avere una persona. E per questo sono costretti a prendere un pregiudicato. Questi sono i suoni, le voci della nostra segreteria telefonica. No, Paolo Del Debbio, qui la questione, come vede, è sempre tutta politica. Insomma, siamo finalmente arrivati un po' al dunque. Per esempio, sentiamo Alfano. Alfano ieri ha detto questo, no? Il ricorso alla Corte dei diritti dell'uomo di Strasburgo. Il ricorso in Europa sta a dimostrare che il caso Berlusconi non è chiuso. Non dà l'idea, Luca. Ci sarà un giudice anche lì. Eccolo lì. È Del Debbio. C'è un giudice a Strasburgo, no? Come la famosa. E vabbè, insomma, oggi c'è la giunta, si vedrà che decidono. Può darsi anche che non decidano nulla oggi. Quindi tante attese per oggi, secondo me, saranno vanificate. È abbastanza magari tipico in Italia, non succede mai in Italia che non si decida mai nulla. Appunto, subito non decidono. No. Anche perché ci saranno ricorsi, le cose, la Corte Costituzionale, tutte queste robe qua. E quindi si vedrà, insomma, io francamente non lo so cosa succede. Quello che mi preoccupa molto, a parte questo, è che qui c'è un ingessamento assoluto, non vedo proprio... Uno dicesse, va bene, ascolta, faccio una grande riforma, non so, della marina mercantile. Vabbè. Dice, sono partiti da lì. Vabbè, criticabilissimo, però una riforma mondiale della marina mercantile italiana. Ma invece, capito, tutte... Niente. Cioè, tirano fuori sto decreto del fare che io ho letto, no? è come, diciamo, abbiamo messo di 1 miliardo per i giovani, una cosa, ma non c'è stato paese al mondo che è ripartito con piccoli interventi così, non funziona. Insomma, ieri Letta ha detto, caro Forchielli, ha detto bisogna abbassare le tasse sul lavoro. Ho capito. Ha detto anche Giovannini. Sì, sono quelle cose, anche gli asini volano. Forchielli, insomma, ma qua il senso che, visto dalla Germania, visto che a Monaco, stinchi a parte, come ci vedono? Lì se ne fregano, sono pronti alle elezioni, quindi... No, l'ho già detto più volte, ci danno per persi, non siamo neanche più argomenti di discussione, se ne fregano, ormai gli italiani non ci si ragiona, vadano come vadano, Letta è un bravo ragazzo, comunque o Renzi o Civati, comunque inculati, cioè, non fatevi troppe illusioni. Siamo passati al PD, insomma, con un'immagine. Vabbè, è un partito di smindolati, capito? Prima ci fanno votare, poi ci dicono che Berlusconi è il diavolo. Poi ci convincono che con Berlusconi il governo è stabile e che ci saranno le riforme e compagnie. E poi dopo Franceschini, che 3 mesi fa perorava le larghe intese, adesso per ora... Sta con Renzi. Renzi, voglio dire, ragazzi, sono 4 marionette, non è... cosa ti posso dire, quattro giocapiatti. Sono un po' come me, certo. Non riesco onestamente a salvarne uno. Adesso con tutta la buona volontà, capito? Neanche tra Renzi. Quello, tra il giaguaro, tra quell'altro, che come dice Del Bebbio, questa roba del fare è una funzione, siamo alla propaganda mussoliniana, come gli aerei di Mussolini che erano sempre gli stessi, capito? Cioè, è il decreto del fare, è nulla rispetto ai bisogni del paese. Ci vogliono le riforme, ma tutti sappiamo che la riforma elettorale non si farà mai, che le riprese di cui parla Letta sono ovviamente le riprese della sua giacca, non la ripresa dell'economia, e poi alla fine l'economia la prende nel culo e così sia. Del Debbio, purtroppo ha ragione Forchielli, ha ragione, ma insomma fa anche le rime baciate così, no? Sì, le rime spacciate più che baciate. Esatto. Le rime spacciate, che dobbiamo fare? Del Debbio, come vanno i politici lì messi in piazza e torchiati un po'? Glielo dico da stasera. Infatti sono tutti pronti. Chi è, si sa già il nome del primo politico che verrà? Siamo in trattative, diciamo, il primo che si metterà alla gogna. Stasera su Rete4 Quinta Colonna, grazie a Paolo Del Debbio, Alberto Forchielli, grazie per queste perle di saggezza, non so, in rima baciata che ci regala, grazie per essere stato con noi da Monaco di Baviera, ci fermiamo, è tempo di giornale radio, poi riprendiamo con la rassegna stampa. Volete dire la vostra? 02 4652 4492. Chiamateci e parlate con la segreteria telefonica di 24 Mattino. 02 4652 4492. E ricordate, Alessandro Milan vi ascolta. 1, 2, 3. Adesso, tra poco, ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 Mattino. L'Italia si desta. Siamo qui alle 7:21 minuti, ben ritrovati allora a leggere i giornali, e vi ricordo che oggi parleremo, ebbene sì, della vicenda Berlusconi. Siamo a un punto non di svolta, non vi immaginate che oggi possa succedere granché, ma si riunisce la giunta del Senato che deve decidere sulla decadenza di Berlusconi dopo la condanna definitiva. Avremo con noi 3 ospiti e tutti e 3 membri di questa giunta: Stefania Pezzopane, la vicepresidente del PD, Lucio Malan del Popolo della Libertà e Enrico Buemi del PSI Autonomie. Questa alle 8:15, ora i giornali. Questo lunedì 9 settembre, intanto i titoli, l'apertura del Sole 24 Ore sulle tasse locali, si riapre il cantiere, questo è il titolo di prima pagina, decisioni possibili fino al 30 novembre, il rischio è quello di nuovi rincari per i cittadini. E buon inizio settimana a tutti voi, con le tasse locali che rischiano di aumentare. Corriere della Sera, il piano per vendere i beni pubblici. Letta dice a fine mese le dismissioni. Questa l'abbiamo sentita da 20 anni, però a fine mese, quindi a fine settembre. E poi c'è la carrellata dei titoli dedicata alla vicenda Berlusconi. Repubblica, giunta, il PDL chiede subito il rinvio. Il Giornale, un'intervista a Brunetta, in gioco spread, IMU e IVA. Il Secolo XIX, Berlusconi l'ultima battaglia. Il Messaggero, Berlusconi scontro sui tempi. L'Unità, Berlusconi scontro finale. Come vedete i titoli sono un po' enfatici, ma sono su questo 9 settembre. La Stampa ovviamente apre sulla liberazione in Siria di Domenico Quirico, l'inviato. Domenico libero è come tornare da Marte. C'è una bella foto di Domenico Quirico, inviato dalla Stampa, accarezzato dal ministro degli esteri Emma Bonino al suo arrivo a Roma. È tornato Quirico, è anche l'apertura del quotidiano nazionale. Ma io voglio partire dalla persona che forse ha riscosso più applausi, almeno stando a quello che raccontano i giornali, ieri a Cernobbio, vale a dire il ministro all'istruzione Maria Chiara Carrozza, che ha lanciato questa frase, questa idea, questo appello che è fatto titolo su tutti i giornali: basta studenti a 25 anni senza avere mai lavorato. Così titola per esempio La Stampa, pagina 19, ma anche L'Unità, Carrozza, scuola più lavoro, ecco come si esce dalla crisi, oppure il Quotidiano Nazionale, lo studio mai più senza lavoro. L'idea è questa, come racconta per esempio Tonia Mastrobuoni sulla Stampa, pagina 19. Non voglio più, ha detto il ministro all'istruzione, che gli studenti italiani arrivino a 25 anni senza avere mai lavorato un solo giorno nella loro vita, neppure come cameriere. Aggiunge La Stampa, secondo una ricerca online del portale scuola.net, il 96% degli studenti ritiene utile svolgere uno stage in azienda durante il percorso scolastico e uno su quattro giudica l'introduzione di percorsi lavorativi in azienda durante gli studi come una priorità per la scuola del futuro. Insomma, diciamo che il ministro dell'istruzione dice almeno bisogna lavorare, bisogna fare stage, quindi ha annunciato bisognerà aumentare il numero di stage per i ragazzi, altrimenti c'è il rischio che arrivino a 25 anni, appunto, si laureano, ma in realtà non hanno fino a quel momento mai visto, mai avuto un contatto vero, serio con il mondo del lavoro. Tra l'altro, questo dà lo spunto anche ad alcuni commenti, come Roberto Fedi in prima pagina del Secolo XIX, sotto il titolo "Mai più la laurea se non hai lavorato, le buone intenzioni del ministro Carrozza", scrive Roberto Fedi, uno dei punti, il rapporto lavoro-studio sottolineato dal ministro Carrozza. Quando dice l'Italia non dovrà mai più sfornare un laureato che a 25 anni non ha mai fatto un lavoro, neppure il cameriere, questione quasi ovvia all'estero, specialmente negli Stati Uniti, ma qui assolutamente inedita. Si disporranno dunque stage già in parte deliberati con uno stanziamento nel decreto del fare, 400 euro al mese per gli stagisti, metà a carico dello Stato, metà dell'azienda che accoglie lo studente. In alcuni corsi di laurea, aggiungiamo noi, già esistono da tempo, fanno parte del curriculum formativo. Tutto sta a vedere però che cosa fanno di fatto gli studenti nelle aziende. Se saranno, come spesso accade, utilizzati solo per le fotocopie o per la fila alle poste, è un puro nominalismo e quindi anche questo aspetto dovrà essere ben monitorato. Più difficile, anche se lodevole, l'impegno ad ammettere agli stage anche i diplomandi, quelli cioè che affronteranno l'esame di maturità. È una questione di numeri, realismo. Tanto per fare un esempio, terra terra, a Genova gli studenti delle superiori sono, cifre di ieri, quasi 30.500. Non è facile immaginarli tutti in 3 anni a fare stage presso aziende e uffici pubblici. Ma insomma il tema interessante c'è, che ha lanciato ed è stato lanciato dal ministro Carrozza. Troppi laureati, quelli che sono laureati, senza aver fatto un solo giorno di lavoro in Italia. Tra l'altro il ministro Carrozza ieri è stata anche, non si sa se applaudita, visto che il consesso era soprattutto maschile e l'abbigliamento prediletto a Cernobbio era rigorosissima giacca e cravatta, ma è stata certamente notata per quella sua dichiarazione contro le grisaglie, no? Ha detto il ministro Carrozza, ha fatto sottolineare che tutti erano vestiti uguali, tutti pettinati uguali, in una parola omologati, e si è chiesta con parecchi clamori, questo il ministro dell'istruzione Carrozza nel suo intervento al forum Ambrosetti a Cernobbio, come racconta per esempio il Corriere a pagina 6, vestiti tutti uguali, il ministro criticò le grisaglie, ha detto è un segno di omologazione, tutti sostanzialmente uguali, non solo la classe dirigente, ma anche i politici, anche i meno usurati, per quanto predichino l'innovazione, si presentano poi ancorati ad abiti più che tradizionali. Perfino Enrico Letta, che proprio a Cernobbio ha sbottato sulla questione femminile, a un certo punto ha detto in questa stanza siamo tutti uomini, questa cosa è insopportabile, però lo ha fatto con la sua bella cravatta rosso scuro. E allora Maria Luisa Agnese sul Corriere sottolinea proprio la battaglia anche culturale del ministro Carrozza a dire, ma insomma è già un modo questo di presentarsi tutti in giacca e cravatta in maniera iper super formale, per omologarsi e per dar l'idea di un paese un po' ingessato. Vabbè, anche questa nota di colore da Cernobbio. Beh, ma ieri l'abbiamo fatto sentire alle 6:30. Siete pronti allora, cari italiani? Panem et circenses, siete pronti? L'Italia vuole candidarsi alle Olimpiadi del 2024. Dopo l'assegnazione a Tokyo del 2020, Enrico Letta non si è fatto perdere l'occasione, ha detto dovremo mettere in agenda la possibilità di candidarci alle Olimpiadi. Io, quando l'ho sentita, mi è sembrata la solita dichiarazione, come dire, c'è crisi? Ma vi regaliamo un po' appunto di circenses. E comunque la disfida è già sui giornali. E cosa fa l'Italia ancor prima di pensare, di ipotizzare se sia possibile candidare una città al 2024 Olimpiadi? Litiga, già parte il litigio Milano e Roma, che sono le due città che sono le due indicate, maggiormente indicate come possibile candidate. Giochi 2024, Roma è pronta. Il Corriere della Sera fa sapere che già Marino forse incontrerà Letta in settimana, ma è già derby con Milano. L'Unità, giochi 2024, l'Italia si candida, scontro Roma-Milano. Ecco, come si suol dire, tutto è ancora, non dico nebuloso, ma ancora di più. Cioè c'è una dichiarazione del Premier che ha detto dovremo mettere in agenda la possibilità di candidarsi al 2024 e già si litiga. Evviva! Ed ecco Alessandro Milan che legge i giornali come nessuno al mondo sa leggerli. Eccoci qui, sono le 7:35. Allora siamo pronti a leggere i giornali con, certo, i giornali vivono molto di riflesso le dichiarazioni di ieri a Cernobbio, dove il Premier Enrico Letta ha concluso il forum Ambrosetti. E è stato un Enrico Letta, un Premier che si è voluto mostrare molto, come dire, speranzoso, basta con il caos permanente, basta non mi faccio fermare dai veti, basta non sono qui a vivacchiare, non sono qui di certo a galleggiare, voglio che sia un governo di riforme, voglio che sia un governo che imprima una svolta. Certo, tutti gli italiani l'aspettano, l'attendono, al momento questa svolta, soprattutto sulle riforme, è molto annunciata, tra l'altro, aperta parentesi, ovviamente non l'ho ancora detto, ma inizia oggi la 19ª settimana decisiva per la riforma elettorale, così come inizia oggi la 19ª settimana decisiva della legislatura per l'abolizione delle province. Chiusa parentesi, ma ieri Letta ha dato un altro annuncio importante, a parte quello delle Olimpiadi, è il titolo di prima pagina del Corriere della Sera, piano per vendere i beni pubblici. A fine mese, quindi appuntatevi questa data, a fine mese le dismissioni, il grande piano per le dismissioni. E un Letta che dice le riforme si devono fare, altrimenti non è stato capito il voto di febbraio. Ho preso un impegno col paese a chiudere la questione entro l'autunno per l'abolizione del finanziamento pubblico dei partiti. Dico a tutti dunque di fare presto. Eccolo qui anche, in autunno, quel grande autunno del 2013 in cui succederanno grandissime, tantissime cose, tante riforme. Attendiamolo con impazienza. Intanto pende ovviamente su questo il caso Berlusconi, ma lo vedremo tra poco. Pende anche che cosa? Pende su questo ottimismo di Letta. Tutti i titoli sono questi: La Stampa, non voglio galleggiare, i veti non mi fermeranno, Repubblica, basta col caos permanente, non mi faccio fermare dai veti. Ma pende anche una discussione che c'è stata sul patto di Genova, così è stato chiamato, il patto tra imprese e sindacati, che è stato firmato da CGIL, CISL, UIL e Confindustria, e sul quale Enrico Letta ha espresso anche ieri parere totalmente favorevole, ma il ministro dell'economia Saccomanni ha frenato. Saccomanni scettico sul patto di Genova, il premier lo corregge. Questo è il titolo di pagina 3, dunque la discussione all'interno del governo tra il premier e il ministro dell'economia, perché il patto di Genova, racconta il Corriere con Roberto Bagnoli, tra Confindustria e sindacati per rilanciare l'economia, divide il guardiano dei conti, il tecnico Fabrizio Saccomanni, dal premier, il politico Enrico Letta. Entrambi sostengono che va nella direzione auspicata dal governo, ma per il ministro del tesoro Saccomanni, se si legge in filigrana, questo accordo mostra un conto della spesa molto elevato, con poco realismo a carico del bilancio dello Stato. E se sono stati fatti i calcoli anche al Ministero dell'Economia, si parla di una spesa di almeno 15 miliardi per mettere in atto e mettere in pratica questo patto. I timori del tesoro, così si legge nell'articolo, i 15 miliardi, una valutazione precisa e realistica molto inferiore rispetto ai 50 miliardi calcolati dal think tank di Renato Brunetta, ma sufficienti questi 15 miliardi per far correre ai ripari il guardiano del rapporto del 3%. Al momento Confindustria ha preferito non commentare la bacchettata sui conti di Saccomanni, anche perché tra Squinzi, presidente di Confindustria, racconta il Corriere, e il ministro del tesoro c'è un grande feeling, e la pesantezza delle richieste in fin dei conti fa parte del gioco del negoziato: chiedi 100 per ottenere 50. Ma certo, su questo c'è stato, come dire, una prima divergenza verbale tra Saccomanni e il premier Enrico Letta sulla questione dei conti. Ieri è arrivato anche Casaleggio, il guru del Movimento 5 Stelle, così viene definito. Grande curiosità, anche perché è arrivato, non ha parlato con nessuno, poi è entrato, all'inizio non voleva neanche far fare le fotografie, poi di fronte all'insistenza almeno le fotografie le ha concesse, però nessuno dei giornalisti ha potuto ascoltare quello che Casaleggio ha detto. E allora qui ci si divide tra Repubblica, Casaleggio dà lezione ai politici, così internet vi distruggerà. Il Corriere, la guerra al porcellum e l'elogio della rete, lo show di Casaleggio. Effettivamente sulla rete si è concentrato, come racconta Gianni Barbacetto a pagina 3 del Fatto Quotidiano. Ecco Casaleggio tra Web, Kennedy e psicostoria, questo è il titolo, racconta Barbacetto. È arrivato nel giorno di Enrico Letta, è arrivato Gianroberto Casaleggio a occupare la scena insieme a Michael Slaby, uno dei guru del presidente Barack Obama. Era stato invitato Casaleggio a parlare e affrontare il tema New Media and the Politics of the Future. E allora, di cosa ha parlato? Ha detto Casaleggio, secondo il Fatto Quotidiano, oggi siamo a un tipping point. Accidenti, come parla, però. Un punto di non ritorno, insomma. Negli USA, negli Stati Uniti, già il web ha superato i media mainstream, con gli utenti che dedicano in media 5 ore e 9 minuti alla rete contro le 4 ore e 31 minuti dedicati alla TV. Declinano i giornali. Nel 2005 i 25 giornali più importanti degli Stati Uniti vendevano 15 milioni di copie, oggi vendono 8,8 milioni di copie. Cresce invece la rete, ed è questo il punto sul quale ha sottolineato Casaleggio. Dunque il web accresce la trasparenza, produce un crollo dei mediatori e delle mediazioni, compresi i partiti, ed è questo il futuro della comunicazione anche politica per Casaleggio. Vabbè, insomma, l'esordio a Cernobbio per il guru del Movimento 5 Stelle. Sarà che c'è l'ottimismo. Sarà che arriverà il piano di dismissioni, sarà che arriverà la riforma elettorale, sarà che arriveranno le riforme in genere, sarà che arriverà l'abolizione delle province, tutto questo è auspicabile. L'unica cosa certa è che presto, molto probabilmente, aumenteranno le tasse locali. Ecco, questo non c'è dubbio. Basta leggere oggi il Sole 24 Ore, la prima pagina, c'è tutto riaperto, il fronte delle tasse locali, si riapre il cantiere, questo è il titolo di prima pagina, perché entro il 30 novembre, dopo la proroga record a quella data della scadenza entro la quale i sindaci devono chiudere i bilanci preventivi, il tempo delle certezze fiscali per i contribuenti italiani si allontana ancora. La finanza locale è immersa nella nebbia, 14 mesi dall'approvazione ancora da definire, la distribuzione dei tagli da 2,25 miliardi previsti dalla spending review del governo Monti. Quindi dove arriveranno questi tagli? Boh, ancora non si sa. Gli enti locali ovviamente sono alle prese con questa incertezza e devono chiudere i bilanci entro il 30 novembre. Di conseguenza resta da stabilire l'assegnazione dei fondi di perequazione. Di conseguenza, insomma, è tutta una reazione a catena. Indovinate a chi arriva poi in quel posto, se al 30 novembre devono chiudere i bilanci e non sanno gli enti locali con quali conti e di quali risorse possono avere a disposizione. Indovinate? Ma c'è un piccolo strumento che si può utilizzare: le tasse locali. Eccole qua, le tasse locali al buio fino a dicembre, a pagina 3 del Sole, l'analisi di quello che potrebbe succedere sulla TARES, sull'IMU 2, la service tax che entrerà in vigore, insomma tutto un ruolino di marcia molto molto incerto che pesa per gli enti locali e che dà incertezza, e quando vorranno avere una certezza mi sa che utilizzeranno il vecchio metodo, aumentare le tasse. Speriamo di no, come speriamo arrivino le dismissioni, come speriamo arrivi la riforma elettorale, l'abolizione delle province, bla bla bla, bla, insomma quelle cose lì. Intanto la politica oggi vive un giorno che non è decisivo, anche questo toglietevelo dalla mente, non pensiate che oggi nella giunta delle elezioni, quella che dovrà decidere la decadenza di Berlusconi, si decida qualcosa, è la prima seduta, peraltro è arrivato un ricorso dello stesso Berlusconi alla Corte dei diritti dell'uomo di Strasburgo, Silvio Berlusconi contro l'Italia per questa sentenza, e quindi, come ha detto il vice premier Alfano, il caso non è chiuso, c'è un giudice che si deve pronunciare. Questa sembra la strategia del Popolo della Libertà in attesa di Strasburgo, che potrebbe pronunciarsi in un mese, intanto per capire se accettare il ricorso di Berlusconi bisogna rinviare tutto. E i giornali si concentrano alla notizia politica del giorno, giunta ai lavori per il Corriere, duello sui tempi. Violante ha già detto che è irricevibile il ricorso a Strasburgo, tanto che in un retroscena del Messaggero Berlusconi è molto affranto. Inizia così il retroscena, pagina 3, di Ettore Colombo. Avete sentito e visto Violante? Perfino lui ora è contro di me. Il PD pensa davvero di potermi far decadere in meno di 20 giorni? Quando fior di costituzionalisti, ministri del governo Monti che ha fatto quella legge assurda, illiberale, ora si sono ricreduti. La legge assurda, illiberale, è la legge Severino, secondo quanto scrive in un retroscena il Messaggero, e l'avrebbe definita così Berlusconi. Legge che peraltro anche il Popolo della Libertà ha votato quando è arrivata in Parlamento. In ogni caso, il caso Berlusconi tiene banco in politica, da cui ripartiamo tra un attimo dopo il traffico. Alessandro Milan, il panettiere dell'informazione. E allora, nei retroscena Berlusconi, che è silente, ha annullato l'intervista con Belpietro di questa mattina. Pare che abbia annullato anche, dovrebbe essere oggi pomeriggio a Sanremo, forse a una kermesse del giornale, forse lì andrà, ma probabilmente no. Il Repubblica lo ha dato ieri per scomparso, forse in Sardegna con i figli, forse sul lago con i figli. Per il Corriere è sospettoso. Tommaso Labate, a pagina 9, nel retroscena: continuano a dirmi che al Senato ci sono spiragli, mi sarà garantito il diritto di difesa, ma continuo a non fidarmi, voglio vedere che succede. Fino ad allora sono sospettoso. Per il Secolo XIX, sul retroscena: ormai ne sono certo, mi faranno fuori. Ma ognuno ha il suo retroscena, è quello che preferite. L'unica notizia interessante di, diciamo, di sviluppo ulteriore la dà La Stampa con Ugo Magri a pagina 12 ed è questa: anche qualora vi fossero gli arresti domiciliari per Silvio Berlusconi, Berlusconi potrà comparire comunque in TV e organizzare vertici politici. Ugo Magri spiega il perché a pagina 12, e cioè tutti immaginano un cavaliere murato in casa a scontare la pena. In realtà la legge prevede questo. Sicuramente le serate al night non vengono tollerate per gli arresti domiciliari, tantomeno dormire fuori casa, ma durante il giorno è di regola consentito mettere il naso fuori in un arco compreso tra le 2 e le 6 ore. E quando una persona è a spasso, il detenuto può fare ciò che maggiormente gli aggrada, perfino tenere un pubblico discorso, addirittura recarsi in uno studio televisivo e da lì lanciare appelli alla nazione. Berlusconi avrà come unici vincoli quelli di evitare approcci ad altri pregiudicati e non tenere comportamenti disdicevoli. Ma una comparsata da Vespa, scrive Ugo Magri, per dire, o una puntata da Santoro, difficilmente verrebbero bollati come gesti biasimevoli. Insomma, chi già pregusta una moratoria di Berlusconi sul video, specie durante un'eventuale campagna elettorale, rischia cocenti delusioni. Il cavaliere non avrà nemmeno bisogno di recarsi in uno studio TV da casa sua. Se lui volesse, sarebbe continuamente online, addirittura in diretta streaming, come nel Grande Fratello o nell'immaginario grillino, e nessuno glielo potrebbe negare. Quindi Ugo Magri scrive: guardate che se anche arrivassero gli arresti domiciliari, non pensiate che Berlusconi sia per questo escluso, diciamo, dalle dichiarazioni pubbliche. Ecco, mettiamola così. Registro anche politicamente un'intervista a Nichi Vendola, intervistato da Repubblica, pagina 7, dice: dovesse cadere il governo Letta, sarà obbligatorio cercare in Parlamento una nuova maggioranza. Intervistato da Giovanna Casadio, dice: mi aspetto la decadenza sicuramente di Berlusconi, me l'aspettavo, non me l'aspetto oggi, ma me l'aspettavo ieri, perché l'anomalia è il fatto che un protagonista come Berlusconi abbia potuto calcare la scena pubblica per oltre un ventennio. Così Nichi Vendola su Repubblica. Vabbè, oggi ne parleremo alle 8.15. Ovviamente c'è grandissima gioia, mia personale, ma credo di tutti, per la liberazione di Domenico Quirico, inviato della Stampa. Davvero, ieri è arrivata improvvisa questa notizia. La Stampa, che per mesi ha tenuto questo fiocco giallo in attesa che Domenico tornasse a casa, ora ha tolto il fiocco giallo dalla prima, vicino alla testata. Il titolo di prima pagina è: Domenico libero, è come tornare da Marte. E Mario Calabresi, che è il direttore della Stampa, tra l'altro oggi sarà ospite di Simone Spezia alle 9 in una puntata dedicata alla Siria, nel suo editoriale dal titolo Una certa idea del giornalismo scrive: Domenico è un uomo libero, libero di raccontare. È stata una terribile esperienza la prima cosa che mi ha detto, ma sa qual è la mia idea del giornalismo? Bisogna andare dove la gente soffre, ogni tanto ci tocca soffrire come loro per fare il nostro mestiere. E poi ha aggiunto con il suo direttore Quirico: non so neanch'io come sto, ma so che ce l'abbiamo fatta. Racconta Mario Calabresi di questi giorni di incertezza, di speranze, speranze poi illuse dopo una telefonata, di Domenico che dice: ho avuto paura, non mi hanno certamente trattato bene, è stato come aver vissuto 5 mesi su Marte e ho scoperto che i marziani non sono buoni. Ed è possibile, dice Domenico Quirico in una delle sue poche dichiarazioni appena arrivato a casa che trovate sulla Stampa, è possibile che io sia stato tradito dalla rivoluzione, quella rivoluzione siriana che ho conosciuto 2 anni fa ad Aleppo, laica, tollerante, e ora è diventata un'altra cosa. E di Siria, tra l'altro, oltre alla grande soddisfazione, oltre alla grande apprensione per tutti gli altri rapiti, sono tanti, tra questi c'è anche un altro italiano, il padre gesuita Paolo Dall'Oglio, che abbiamo avuto anche noi ospite un paio di mesi fa, poco prima che venisse rapito qui a questi microfoni. L'apprensione per le altre persone, ovviamente, che sono ancora in mano a varie bande, vari gruppi siriani. Comunque, della Siria ne parlerà alle 9 Simone Spezia. Noi siamo alla chiusura e al premio più ambito ormai della rassegna stampa di Radio 24, vale a dire il premio La Carta Costa per l'articolo più inutile scovato sui giornali. Oggi bisogna dare un exequo. Un exequo, sia Repubblica che il Corriere della Sera dedicano un bello spazio alle nozze di Belen, che evidentemente non sanno da fare. È il secondo prete che si ritira, si rifiuta di celebrare le nozze di Belen. Dopo un sacerdote è subentrato un altro sacerdote che è soprannominato Don Spritz. Pensate, Don Spritz. Perché? Perché va nei locali del Padovano a cercare di sensibilizzare i giovani, no? Nei locali della moda, no? E anche Don Spritz si ritira. Troppo gossip sul sì di Belen, su Repubblica, per esempio. Un eccesso di mondanità inconciliabile con l'austerità predicata da Papa Francesco. Non si può celebrare queste nozze. Ma anche sul Corriere Belen incassa un altro no. Secondo no incassato da Belen, clamoroso. Non le succedeva due no di seguito dal 71, credo. Si ritira anche Don Spritz, anche lui ha detto: ho parlato con la signora Giorgia Matteucci. E uno dice: chi è la wedding planner del matrimonio di Belen? E avevo chiesto una sola condizione: poter incontrare i due fidanzati personalmente prima del giorno del matrimonio. Ma tale richiesta ha ottenuto solo rimandi, rimandi e rimandi. È impegnata Belen, mica. Sono venute dunque a mancare le condizioni per fare in modo che un sacramento non venga triturato dal gossip. E così Don Marco Pozza, Don Spritz, è il secondo prete che dice: questo matrimonio, a meno con me, non sa da fare. Oh, Corriere, Repubblica, ricordatevi che la carta costa. 24 mattino. Ben ritrovati da Alessandro Milan alle 8:17 minuti. Allora, eccoci qua. Una piccola premessa, se avete passato l'estate leggendo le 10-12 pagine quotidiane che i giornali dedicavano alla vicenda Berlusconi, vi siete appuntati questa data, 9 settembre del 2013, cioè oggi, presentata come il D-Day, o meglio il B-Day, Berlusconi Day, in cui pensate alla fine di questa giornata che tutto sarà chiarito. Beh, non fatevi molte illusioni, non è che stasera si saprà se la giunta che si riunisce oggi alle 3:30, la giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari deciderà in giornata che succederà della sorte di Silvio Berlusconi, che ha una condanna in Cassazione a 4 anni per frode fiscale e un'interdizione ai pubblici uffici, e quindi bisogna decidere dell'eventuale decadenza da senatore di Silvio Berlusconi. Ecco, non si deciderà oggi, mettetevi l'anima in pace, però oggi, dopo tante chiacchiere, è la prima volta che si riunisce questa giunta composta da 23 membri. In teoria la maggioranza è a favore della decadenza di Berlusconi, poi si dovrà esprimere su questo il Senato, insomma c'è tutto un iter, però politicamente siamo a uno snodo importante. Ne vogliamo parlare con la vicepresidente della giunta delle elezioni, Stefania Pezzopane, del Partito Democratico, che saluto, buongiorno. Buongiorno. Saluto anche il senatore Enrico Buemi, che è del PSI Autonomie. Buongiorno, senatore Buemi. Buongiorno a tutti. Anche lui fa parte, è uno dei 23 membri di questa giunta. Senatore Buemi, intanto chiariamo, lei è stato eletto con il PD, ma già le dicono, ma lei però adesso ha cambiato un po' opinione, non è più della linea PD, ecco, possiamo tradurla così? Ma guardi, io sono stato eletto nelle liste del PD in base all'accordo Italia Bene Comune come esponente del Partito Socialista, però mi permetto di dire che su questa questione il PD o il PSI o altro partito non c'entra assolutamente niente, in quanto la Giunta in questa attività funziona come organo giurisdizionale, deve prendere in esame i documenti, la sentenza, le interpretazioni, le leggi vigenti, i principi costituzionali, dopodiché decidere sul futuro l'applicazione della sentenza. È chiaro. Quindi le posizioni politiche non c'entrano niente. Beh, insomma non c'entrano niente, lei dice, però un pochino, almeno quando si dice i tot del PD voteranno in un modo, quelli del Movimento 5 Stelle anche, del PDL in un altro modo, lei non crede che insomma sia abbastanza fedele? Sarebbe come dire che di fronte a un procedimento penale per un omicidio, chi decide la colpevolezza o meno dell'imputato sono soggetti esterni, legittimi, autorevoli, sicuramente di grande peso per l'opinione pubblica, ma che non hanno responsabilità all'interno del procedimento. Allora, comunque, 800240024, questo è il numero per voi ascoltatori se volete intervenire. Che ne pensate, che idea vi siete fatti del punto politico a cui siamo arrivati? Berlusconi ieri è stato silenzioso, molti retroscena lo danno come una persona molto arrabbiata, una persona che dice mi vogliono fare fuori politicamente. È arrivato in extremis un ricorso anche alla Corte dei diritti dell'uomo, Europea dei diritti dell'uomo a Strasburgo. Ieri il vice premier Alfano, ed è questa la prima considerazione da cui voglio partire anche con Stefania Pezzopane, ha detto questo riguardo a questo ricorso. Il ricorso in Europa sta a dimostrare che il caso Berlusconi non è chiuso. Non dà l'idea, l'opinione ci sarà un giudice anche lì e siamo convinti che ci siano tante ragioni per essere fiduciosi. Allora, ci sarà poi aggiunta altre cose. C'è un giudice a Strasburgo, cara senatrice Pezzopane, ha sentito, quindi il caso non è chiuso. Come dire, forse stiamo accelerando un po' i tempi anche con questa giunta, o no? Ma assolutamente no, perché la giunta si sta muovendo con molto rispetto del diritto di difesa di Silvio Berlusconi, ma anche deve avere un rispetto forte nei confronti di una sentenza di terzo grado giunta in Cassazione che esprime chiaramente la condanna. E in Italia non c'è un quarto grado di giudizio, quindi il terzo grado è il giudizio finale, e che dice che la decadenza è immediata, usa una parola che non ha, diciamo, possibilità di equivoci. La giunta per le immunità non è un organismo giurisdizionale, essendo un organo politico di emanazione parlamentare, ma un organo paragiurisdizionale, ovvero non può esprimere giudizi, ma deve semplicemente, in analogia con un organismo giurisdizionale, verificare se la condizione, in questo caso di Silvio Berlusconi, è diciamo correlata con il caso che la sentenza ha giudicato. Quindi c'è un equivoco di fondo che è ovviamente portato avanti ad arte, che attribuisce alla giunta per le immunità un potere che la giunta che non ha. Assolutamente. Lei dice indipendentemente da come va a finire la vicenda a Strasburgo, se accoglieranno vicenda, meno il ricorso. La vicenda di Strasburgo è una vicenda esogena al procedimento della giunta per le immunità. La Corte Europea di Strasburgo ha i suoi tempi, le sue modalità ed è estranea a quanto nel procedimento che stiamo affrontando noi si verifica. Però mi scusi, non ci potrebbe essere un paradosso per cui mettiamo, si accelera in giunta e si prendono delle decisioni, mettiamo sulla decadenza, poi viene accolto il ricorso a Strasburgo che in qualche modo... Ma bisogna guardare nel merito le cose, nel ricorso alla Corte Europea di Strasburgo si fa riferimento alla questione della retroattività della legge, sì, certo, che è una problematica che già stiamo verificando all'interno della giunta e su cui il relatore Augello oggi dovrà dire qualcosa e noi dovremo esprimerci su questo. Non possiamo affidare alla Corte Europea di Strasburgo una verifica che noi dobbiamo fare e su una sentenza già comminata in terzo grado. Il dibattito parlamentare che portò all'approvazione della legge cosiddetta Severino, è chiaro, si voleva approvare una legge che già in questo Parlamento producesse l'effetto di eliminare, diciamo, coloro i quali avevano condanne, di non fare candidati quelli penali, che di non far candidare quelli che avevano condanne. Perché la retroattività riguarda il fatto che la legge è stata approvata nella scorsa legislatura, quindi chiunque avesse dovuto comporre delle liste doveva, in ossequio a questa legge, fare le opportune verifiche e valutazioni. Legge Severino che in un retroscena del Messaggero, per quanto valgano i retroscena, Berlusconi avrebbe definito ieri illiberale. una legge illiberale approvata dal governo Monti, per la verità approvata anche poi in Parlamento dagli uomini del Popolo della Libertà, uomini e donne del Popolo della Libertà. Senatore Buemi, chiedo anche a lei la questione della Corte di Strasburgo. Secondo lei questo ricorso deve in qualche modo, come chiede il Popolo della Libertà politicamente, non all'interno della Giunta, ma forse lo faranno anche oggi, fermare, sospendere in qualche modo le decisioni che voi potreste prendere da oggi? Ma guardi, io non voglio fare polemica con la collega Cristofane, che stimo e che quindi non mi permetto di alzare i toni, ma questa questione che la Giunta non funzioni su queste materie come un organo giurisdizionale non la condivido, perché ci sono due sentenze, una della Corte Costituzionale del 2006 e 2009, che sostengono il contrario. Detto questo, credo anch'io che la questione del ricorso alla Corte Europea per quanto riguarda l'attività della Giunta non ha incidenza, in quanto l'attività della Giunta prende in esame fatti che devono ancora accadere, ad esempio il ricorso che appunto si riferisce alla esclusione, all'applicazione della legge Severino, che ancora non è stata applicata, perché da oggi pomeriggio la Giunta esaminerà la questione, quindi mi pare che sia in questo momento sia un contributo culturale più che un elemento giuridico da prendere in considerazione. Senta, senatore, ma non fosse la vicenda, lei sente qualche accusa di tradimento politicamente nei suoi confronti? Non c'è dubbio, la polemica in questi giorni, anche i messaggi, le pressioni, lo stalking politico che ho subito io, ma che credo abbiano subito tutti i colleghi della Giunta. Cioè, perché lei dice, perché lei si deciderà in Giunta, però lei è stato eletto all'interno delle liste del PD e negli ultimi giorni, anche oggi ha fatto un paio di interviste alla Stampa, al Quotidiano Nazionale, manifesta una apertura che il PD fino a questo momento non ha mostrato sul punto di dire Berlusconi deve decadere. Ma guardi, io ritorno a dire, il PD per me da questo punto di vista non è un soggetto che ha competenza, ci sono le posizioni degli esponenti del PD che a mio avviso, come il sottoscritto e come gli altri componenti della Giunta, del PDL, di Scelta Civica, eccetera, hanno l'obbligo di formarsi la loro opinione all'interno del dibattito che oggi inizia in Giunta analizzando i documenti. Chi continua a sostenere che ci sia una posizione politica sull'argomento fa male alla Giunta, fa male al Senato, fa male alla sua parte politica e fa male alla giustizia nel nostro paese. Sono 20 anni che su queste questioni ci sono posizioni politiche, mentre il compito dovrebbe aspettare ai giudici, alla legge, senza interferenze della politica. La Giunta, in base ai principi costituzionali che sono vigenti nel nostro paese, ha il compito di predisporre un giudizio che viene poi portato nell'Assemblea del Senato per esaminare la decadenza questo è l'iter. Senatrice Pezzopane, lei può garantire che oggi interverrà, lei come tutti gli altri, in giunta con un ruolo, come dire, asettico? Mi sembra che il senatore Buemi voglia dire questo, cioè scevro dalle appartenenze politiche. Lei in questo momento non è una senatrice del Partito Democratico all'interno della giunta, è una senatrice della Repubblica e deve decidere in maniera totalmente neutrale sul caso di Silvio Berlusconi. Le pare possibile? Sì, è assolutamente possibile e riguarda tutti i componenti della giunta per le immunità, quindi riguarda i componenti PD come riguarda i componenti PDL, che in queste settimane si sono invece avventurate in stravaganti interpretazioni di norme, sentenze e quant'altro. Quindi è un principio che riguarda tutti, però è un principio che deve fare i conti con la sostanza. La sostanza è una condanna di terzo grado con una legge che parla di decadenza immediata. Infatti in base a questo non sarebbe già chiuso il discorso, secondo lei? Berlusconi di fatto è già decaduto sulla base della legge Severino e della sentenza, poiché però è un senatore, c'è un procedimento che riguarda la giunta per l'immunità. Se fosse stato un sindaco, un consigliere regionale, un assessore, sarebbe già stato dichiarato decaduto con un decreto del prefetto, sì, come è avvenuto a numerosi esponenti di enti e di istituzioni a seguire dalla legge. Sì, lo sappiamo, sì, che all'interno del Parlamento c'è vige questa autodichia, sì, no? La questa... legge... Esatto, la legge Severino è già applicata, non è che in prima applicazione, no, chiaro, in prima applicazione per un parlamentare. Vorrei poi dire una cosa, insomma, quando molti esponenti del PDL sostengono che questa legge è illiberale, dimenticano che l'hanno non solo votata e approvata, ma guardasigilli del governo Berlusconi, Alfano, ministro Alfano, la proposta, quindi seppur in una forma diversificata in alcuni aspetti, tuttavia leggendo il dibattito parlamentare e seguendo gli interventi dei componenti del PDL in quel dibattito, sia alla Camera che al Senato, c'è una sorta di orgoglio che viene manifestato, sì, sì, da questi esponenti. Quindi lei dice dopo, adesso non possono essere, non possono definirle liberali. Sì, no, però si fermi un attimo perché devo dare la pubblicità e il meteo. Devo anche salutare e ringrazio il senatore Enrico Buemi che è stato con noi. Ricordo 800 24 00 24, se volete intervenire in diretta tra poco anche con gli ascoltatori. Rimane invece la senatrice Stefania Pezzopane, tra poco ci raggiungerà anche per il Popolo della Libertà il senatore Lucio Malan, e arriviamo fino alle 9 anche con i vostri contributi tra poco. 24 mattina. Allora, le 8:36 minuti, siamo con Stefania Pezzopane, che è vicepresidente della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, che oggi al Senato si riunirà per la prima volta ufficialmente per discutere del caso decadenza di Silvio Berlusconi dopo la condanna definitiva a 4 anni per frode fiscale. Voglio sentire un'ascoltatrice. 800 24 00 24. Paola da Milano, buongiorno. Paola, ci sente? Sì, sì, buongiorno. La sento, dica. Perfettamente, mi sentite? Benissimo, dica. Ok, niente, io volevo esprimere veramente un dissenso totale verso tutto quello che sta succedendo, perché mi sembra assurdo che dopo tutti questi anni, dopo tutte queste condanne che sono state pronunciate, non si sia ancora arrivati a capire che questa persona avrebbe quantomeno dovuto degnamente ritirarsi, farsi giudicare, vabbè, da prima come un cittadino qualsiasi, se fosse stato così specchiato di moralità e di etica, però non l'ha fatto, quindi ce lo ritroviamo ancora, diciamo così, tra le vite di tutti. Vabbè, insomma, adesso cosa vuole dire Paola? È una persona molto votata e fa politica, adesso, esatto, però c'è stata questa condanna. Mi dispiace tantissimo, purtroppo, e mi dispiace dirlo, ma la verità è questa, è che non riesco a capire che cos'altro si abbia bisogno per rendersi conto che probabilmente non è che abbia fatto tutto questo gran bene né a chi non l'ha votato, sì, né tantomeno a chi l'ha votato. Ma questo però, Paola, scusi, quello è un giudizio politico, sì, ognuno può dare quello. Restiamo sulla questione della... Lei dice, di fronte a una condanna definitiva, esatto, non vede davvero che tipo di discussione ci debba essere, no, mi sembra di capire. Infatti, no. Non lo capisco sinceramente, mi sembra che tutti quanti stiamo allegramente perdendo del tempo con delle cose di cui magari potremmo occuparci in misura minore, sì, ecco, sì, forse. Vabbè, però Paola, d'accordo, noi ce ne siamo occupate, io sono il primo in rassegna stampa a dire che siamo alla telenovela numero 5383 dell'affare Berlusconi, però ce ne occupiamo oggi in maniera approfondita, perché oggi parte questo iter. E poi, sa, leggendo i giornali c'è la minaccia di una crisi di governo su questo, e quindi se questo impattasse politicamente sulla crisi di governo, ecco che allora sarebbe una cosa totalmente politica. A questo proposito, prima di un altro ascoltatore, senatrice Pezzopane, come si fa a dire che non ha, che è vero, lei dice noi non prendiamo una decisione politica, prendiamo una decisione tecnica perché siamo in qualche modo giudici di una, ma come si fa a far finta che c'è una crisi di governo che viene ogni giorno invocata o minacciata o annunciata 3-4 volte? Ma infatti è proprio lì il profondo equivoco. Collegare un lavoro che dobbiamo fare in maniera molto impegnata, molto rigorosa all'interno della Giunta per l'immunità e che riguarda la vicenda giudiziaria di Silvio Berlusconi con un'altra vicenda che è quella che è l'interesse del paese e che mette al servizio del paese un'intera classe dirigente che nel Parlamento ha deciso su input del presidente Napolitano di lavorare insieme. Però mi scusi, se Silvio Berlusconi o qualcuno per lui dice se succede questo, cioè se decade, vale dire se non aspettate la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, se non giudicate che sia incostituzionale la retroattività della legge, cade, è chiaro che diventa una questione politica. Sì, la questione politica è che abbiamo un ex presidente del Consiglio che è stato condannato in terzo grado per frode fiscale, questa è la vera questione politica, ovvero che il paese, l'Italia, ha questa profonda, gravissima anomalia, questa è la questione politica principe. Certo, le conseguenze, ma noi non possiamo essere ricattati. Se è vero quello che diceva anche il collega Buemi, che noi dobbiamo agire come fossimo dei giudici, a maggior ragione non dovrebbero esserci queste pressioni. Immaginate un collegio giudicante di una qualsiasi magistratura con queste pressioni, chiaro. A cui si dice se fai così casca il governo, se fai colà, non so cosa accade. Insomma, lei dice c'è un ricatto. Mi faccia sentire ancora ascoltatori. Cristina da Venezia, buongiorno. Buongiorno. Dica. Niente, tre cose in brevissimo tempo. Allora, primo di tutti, io sono favorevole al fatto che Berlusconi venga dichiarato decaduto, perché è ora di finirla, come dice lei, con questa telenovela che ormai non se ne può proprio più. Due, faccio presente che sono 24 mesi che presso il Tribunale di Venezia vengono depositate memorie per una mia udienza, per il divorzio che sto in corso di definizione, e il tribunale non se ne è mai pure pronunciato su dopo 24 mesi. Lei dice, lei dice questo è il vero problema della giustizia in Italia. Capito, e quindi qua si parla della vita mia e di mio figlio, ma probabilmente vale molto meno del fatto che Berlusconi sia andato con ragazze più giovani oppure no. Vabbè. E terzo, forse il governo dovrebbe pensare di decadere se non è in grado di farsi mea culpa e diminuire la spesa pubblica che rappresentano proprio loro al governo. Quindi questo è il motivo. È una vergogna ed è ora di finirla, e le premetto che io non sono una votatrice di sinistra, io non ho mai votato Partito Democratico, non sono una che vota a sinistra. Va bene, la ringrazio Cristina. Andrea Bergamo da Oreste, buongiorno. Ecco, Oreste ci ha abbandonato. Senatrice Pezzopane, stare al governo con Berlusconi, o con Berlusconi non è al governo ovviamente, ma con il Popolo della Libertà, con il cui leader ha subito questa condanna, è una fonte di imbarazzo politico per voi? Ma per noi non è una fonte di imbarazzo politico se questa vicenda si chiude rapidamente e se il governo continua a fare la missione per cui è stato insediato. Cioè lei dice, se decade Berlusconi non c'è imbarazzo, se invece non decade l'imbarazzo c'è. No, non è questo. Io penso che Berlusconi sia stato già dichiarato decaduto da una sentenza di condanna in terzo grado. Noi dobbiamo soltanto applicare questa sentenza, ovviamente approfondendo le ragioni, ascoltando il relatore Augello, non so se ha qualche coniglio nel cappello, questo lo vedremo oggi pomeriggio, però oggi allo stato dei fatti, senza che emerga una novità all'interno del dibattito della Giunta per le immunità, la sentenza è chiara, è condanna a pena superiore a 2 anni, quindi la legge Severino va applicata, non c'è un'altra strada, quella di non applicare una sentenza. Si può prendere tempo una settimana, 2 settimane per approfondire le ragioni del relatore Augello, ci mancherebbe altro. Non abbiamo questa fretta, né vogliamo apparire a nessuno. Quali persone che non vogliono sentire le ragioni altrui. La sentenza è stata comminata, non è che siamo senza sentenza per cui la giunta ragiona ma su questo non c'è dubbio, ma è una sentenza contestata, ma adesso non è che voglio fare né la parte dei berlusconiani, anche perché adesso avremo forse, se ci risponde, il senatore Malanda, ma lei lo sa che la sentenza viene contestata, ma insomma la magistratura, che tipo di magistratura, sono discorsi che da 20 anni si sentono sempre, la magistratura politicizzata, queste cose qui, bisogna tenerne conto o chi se ne frega? Ma è una sentenza di terzo grado, le sentenze di terzo grado vanno applicate, poi si può ritenerla ingiusta, si può ritenerla inappropriata, ma va applicata. Non è che perché la si considera ingiusta non si applica. Qui c'è un principio dello Stato di diritto e c'è l'altro principio, che è quello della legalità. Ma ci immaginiamo che qualsiasi cittadino che dovesse ritenere la sentenza ingiusta e si apre un procedimento di questa natura. Ma questo è chiaro. Sentiamo Ezio da Roma. Buongiorno Ezio. Buongiorno Mina, buongiorno a tutti gli ospiti. Dunque, guardi, io chiamo perché mi sembrava impossibile che due chiamate, tutte e due a favore della decadenza di Silvio Berlusconi. Vabbè, capita. No, non capita. Perché? No, come non capita? Un paese in cui gli arbitri, stanno giocando a favore dell'avversario. Quindi io in un paese democratico non so, è vero che è uno Stato di diritto, però si ricordino i signori di sinistra che chi dispara ferisce. Un giorno arriverà qualche magistrato che giocherà contro, come stanno facendo attualmente gli attuali magistrati. Leggetevi l'intervista di Confalonieri oggi, in cui dice bilanci sul giornale. Sul giornale. Firmavo io, a me mi hanno assolto due volte. Confalonieri oggi dice, in realtà l'intervista non è, sì, è sul giornale, è stata fatta da Magna Carta, però riproposta sul giornale, dice i bilanci di Mediaset le firmavo io e io sono stato assolto, mentre Berlusconi, che stava a Palazzo Chigi, è stato condannato. Quindi secondo lei, Ezio, torniamo alla questione originale, cioè la sentenza è viziata da una qualche pregiudiziale, è politica. Stiamo scherzando. Ma dove, però mi scusi Ezio, guardi, non avranno gli elettori di sinistra, non avranno mai il nostro scalpo, stiano tranquilli. Però Ezio, mi scusi, le faccio questa domanda: se il principio è la sentenza è politicizzata, per questo, per un principio dell'assurdo, vuol dire che se Berlusconi è assolto, se è condannato è perché la sentenza è politicizzata. In questo modo non potrà mai esserci un'eventuale condanna incontestabile con questa magistratura. Sono candidato per problemi civili, lasciamo perdere. Io auguro a nessuno cittadino onesto e serio di capitare in questa macina. Io stamattina andrò a firmare il referendum di Pannella, già firmai il primo di referendum che vincemmo col 98% circa dei voti, e la magistratura è rimasta lì dove era, è rimasta lì. Giudice che sbaglia mi dica un caso di un giudice che è stato condannato, a cominciare da quel povero Ezio Tortora, in cui uno dei due è diventato membro del Consiglio Supremo, dall'altro è andato in Corte Costituzionale. Dice con questa magistratura dunque non lo riuscirà. Va bene, no, ma è stato chiarissimo. Grazie Ezio, alle 8:47 minuti è tempo della viabilità e poi rientriamo l'ultima parte di 24 mattino. Eccoci qui alle 8:48 minuti, allora ci ha raggiunto anche il senatore Lucio Malan del Popolo della Libertà. Buongiorno senatore. Buongiorno a voi e agli ascoltatori. Lei è un altro, insieme al senatore Buemi che abbiamo avuto in apertura, e la senatrice Pezzopane del PD, lei del Popolo della Libertà è un altro membro dei 23 che dovrà decidere. Allora, la senatrice Pezzopane poco fa ci ha detto saremo scrupolosi, saremo rispettosi di tutti i diritti della difesa, ci mancherebbe, non c'è alcuna fretta da parte nostra, però il dato di fatto è che di fatto Berlusconi è già decaduto per effetto in maniera pratica della Severino. Non fosse un senatore, fosse un sindaco, non ci sarebbe neanche tutto questo gran parlare, insomma sarebbe già chiusa la vicenda. Perché invece al Senato è diversa, senatore Malana, a parte la questione tecnica che abbiamo spiegato, l'autodichia, cioè perché politicamente invece qui è diverso? Dunque, innanzitutto vedo che c'è un grande scrupolo dicendo già addirittura il verdetto non è già deciso, ma c'è già, dice addirittura che è già decaduto. Perché la legge è in vigore. La legge. E allora si è già decaduto, possiamo anche smettere di discutere, cioè la discussione diventa una finta e si capisce bene la buona fede che anima questo tipo di ragionamento. Quanto al fatto dell'applicazione per altri versi di questa legge, se è stata applicata retroattivamente, è stato un errore e anche molto grave. Le norme che impediscono, che proibiscono la retroattività delle leggi sono le norme fondamentali della civiltà giuridica. È nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, nella Carta Europea dei diritti, nella Costituzione italiana, che soprattutto alla sinistra, fa sempre a gara ad esaltare, salvo poi volerla violare in modo plateale gravissimo come questo. Questo è il punto. Se è già stato fatto, è perché non essendoci, essendoci un'applicazione diretta, perché appunto c'è questo fatto tecnico, ma non è tecnico, è costituzionale, sì. Sempre qui, anche la Costituzione non è solo fatta dagli articoli che piacciono, è fatta anche dagli articoli che tutelano tutti i cittadini, anche se fra questi cittadini c'è Silvio Berlusconi. Questo sicuramente, ma lei vede nella giunta, ovviamente non si è ancora riunita, ma vede un rischio di una politicizzazione, devo dire a questo punto da ambo le parti o da tutte le parti delle componenti della giunta, questo rischio? Il rischio c'è oggettivamente e non è, come dire, e in sé non è neppure sbagliato, nel senso che se i padri della Costituzione più bella del mondo hanno deciso che stabilire se uno ha i titoli per essere senatore o deputato lo decidono il Senato e la Camera, ci sarà stata una ragione, ben sapendo che evidentemente i membri di Senato e Camera sono politici. Però sono un organo politico, deve decidere sulla base del diritto. Se naturalmente la politica è una delle valutazioni che ci rientrano, ma non si può andare a testa bassa contro il diritto. Questo certamente, però su una base politica. Senatore, detto che c'è un ricorso presentato che pende alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, però non si può neanche andare contro il diritto sul fatto che c'è una sentenza, piaccia o no, in terzo grado, in Cassazione, definitiva, quindi non, in Italia il quarto grado non esiste. Cioè come la mettiamo di fronte a un cittadino che dice ma c'è una sentenza, ripeto, sarà politicizzata, sarà, però quella è una carta scritta e firmata, come facciamo a farne finta? Allora, quella è una sentenza ignobile e vergognosa sotto ogni punto di vista, che in qualunque paese civile quantomeno non avrebbe potuto essere pronunciata da un giudice che si era già pronunciato apertamente in ostilità. Questo è un giudizio, però c'è. Ma infatti la storia del quarto grado è una pura invenzione, perché non c'è nessun quarto grado. Il normale cittadino, come viene chiamato, non ha un giudizio della giunta per il semplice fatto che il normale cittadino non deve decadere da parlamentare, perché non lo è. È chiaro. È semplicissimo. Per cui non c'è nessun quarto grado, è il primo grado di vedere se questa legge, della legge della decadenza, si applica al caso di Silvio Berlusconi. Sì, ma la questione è, ripeto, scritto che Berlusconi decade. No, però c'è una sentenza, cioè che dovrà essere applicata. Cioè, se fosse stata una sentenza da Alessandro Milan, mi sarebbero venuti a prendere, nel senso, o mi verrebbero a prendere con i dovuti tempi. Esattamente nella situazione in cui è Berlusconi. Con la semplice differenza che, non essendo parlamentare, non si discute sulla sua decadenza, ma sarebbe esattamente nella situazione di Silvio Berlusconi, il quale nel giro di qualche settimana, quando per le procedure burocratiche di garanzia della giustizia che spettano a ogni cittadino, e automaticamente, non è che vengono chieste da Berlusconi roba di questo genere, scatterà il regime della reclusione, potrà eventualmente diventare domiciliari o altre cose. Questo sì. Ho 30 secondi, senatore Malan, e ringrazio anche la senatrice Pezzopane, ma non ce la faccio a farla intervenire. Senatore Malan, lei cosa propone, cosa proporrebbe, cosa vorrebbe? Una sospensione, cioè aspettiamo, vediamo da parte della giunta, nessuna fretta? Allora, quello che io proporrei sarebbe che, poiché palesemente nessun tribunale applica le pene in modo retroattivo, Berlusconi deve essere confermato nella sua elezione. Poi, quando arrivasse l'interdizione dai pubblici uffici, se ne riparla. Se c'è un'opinione radicalmente diversa, prima di violare la Costituzione, un parere agli organi che tutelano sia la Costituzione sia la Carta Europea dei Diritti dell'Uomo, va chiesto. Va bene, vi ringrazio, staremo a vedere. Oggi alle 15 si riunisce la giunta, ripeto, non sarà il giorno decisivo, in Italia di decisivo non c'è mai nulla, non vi preoccupate. Grazie al senatore Malan, alla senatrice Pezzopane, con Anita Panizza in redazione, il nostro alpino Peter Bescapè in regia. Vi diamo appuntamento a quando? A domani, siamo sempre qui alle 6:30. Ventiquattro mattino.